Bene, cominciamo la risposta alle domande. Innanzitutto, bentornati a tutti. Vedo che già ci sono un pochino di domande che sono partite. Cominciamo subito le risposte. Allora, qual è la prima? Sì. Giobard 67, buonasera. Per garantire il sigillo sacramentale del sacerdote, qual è l'iter nell'ipotesi in cui la soluzione compete al vescovo? Allora, la domanda non è del tutto chiara, d'accordo? Quindi provo a rispondere in base a quello che comprendo. Il sigillo sacramentale è semplicemente inviolabile, quindi punto e basta. In maniera piena, totale, integrale e assoluta. Per cui se ci fosse un peccato riservato all'autorità superiore, parte il fatto che ordinariamente ciò che è assolvibile dal vescovo è delegato nelle diocesi alla una figura che si chiama il penitenziere. E quindi basta che il sacerdote, se sa che c'è un delitto riservato, dica al penitente: vatti a confessare dal penitenziere. Punto. E anticamente, quando c'erano dei peccati riservati, per esempio prima che Papa Francesco desse l'indulto a tutti i sacerdoti di assolvere dal delitto di aborto, che prima non c'era, se veniva confessato un aborto, sia da parte dell'autrice diretta, un aborto volontario, che del complice, il marito oppure. La prassi era molto semplice, che il penitente doveva essere, come dire, avvertito che non poteva ricevere immediatamente la soluzione, trattandosi di un delitto per cui era necessario rimettere la scomunica e quindi doveva ricevere la facoltà dal vescovo, e per cui, nel più assoluto anonimato e segreto, il sacerdote riferisce al vescovo: mi è capitato un caso X di aborto, eccellenza, se mi dà la facoltà di assolverlo e di rimettere la scomunica, e se eventualmente ha qualche cosa da dire circa la penitenza, quindi sempre garantendo in maniera assoluta il sigillo sacramentale. Il sigillo sacramentale è inviolabile da tutti, compreso dal sacerdote stesso, d'accordo? Perché il sacerdote stesso, questo così sa, non può nemmeno ripensare volontariamente al contenuto di una confessione, perché se pensa volontariamente al contenuto di una confessione pecca mortalmente, il sacerdote stesso che l'ha sentita. D'accordo? Quindi è un mondo completamente a parte, blindato fino all'inverosimile, d'accordo? Quindi non, su questo proprio non si deve avere alcun timore. Babbini 4 dice: secondo l'interpretazione del peccato originale offerta dalla Valtorta, Dio ha in qualche modo dovuto accettare la rivoluzione sessuale dell'uomo. Se così fosse, allora la sessualità non è dono di Dio. Allora, numero 1. Bisogna evitare, come dire, discorsi così frettolosamente semplicistici, d'accordo? Un po' sul rigido conseguenziale. Ecco, generalmente le cose sono un pochino più complesse e sfumate. Allora, da quello non è solo Maria Valtorta, anzitutto dire questa cosa qui, d'accordo? Ma San Giovanni Crisostomo, Trattato del De Virginitate, non ha nessun dubbio che il matrimonio non era stato, come il matrimonio, diciamo, inteso in senso stretto, quindi come unione sessuale allo scopo riproduttivo, non era stato pensato né previsto da Dio per i primi, punto. Che questo sia una conseguenza del peccato originale è chiaro a diversi autori, quindi che poi Maria Valtorta, come dire, ne parli ed elabori un pochino questa cosa, sì, ecco, ma non è una cosa sua. C'erano fior di autori che ne hanno parlato prima di lei. Uno. Punto secondo, dire in senso stretto che la sessualità è un dono di Dio, proprio pum. E ecco, bisogna un attimo starci a pensare un pochino, perché anche leggendo tanti documenti nel corso del tempo, insomma, di per sé, come noi sappiamo, la sessualità, di questo ne hanno parlato diversi documenti del magistero, adesso non riesco a citarle tutti quanti, no? Però mi vengono in mente adesso le considerazioni, come dire, di Benedetto XVI quando scrisse la Deus Caritas Est sull'amore agapico e l'amore erotico. L'amore, che è l'amore modellato su quello divino, è amore agapico, cioè amore che si dona, cioè che parte dall'io a un tu in maniera oblativa e disinteressata. L'amore che si vive nella sessualità non è amore agapico, è amore erotico, tant'è vero che si parla anche di erotismo. E che significa? Significa che il principio dell'eros, cioè dell'erotismo, non è che io mi dono a te, ma io prendo da te, perché, come dire, la vita sessuale, come dire, ha come caratteristica, come dire, il suo essere intrinsecamente ordinata al piacere sessuale. E il piacere sessuale è, d'accordo, è una cosa egoistica, personale. Tant'è vero che i documenti della Chiesa parlano dell'integrazione della sessualità nell'affettività e nell'amore come compito degli sposi. Cioè il sacramento del matrimonio crea un ambiente anzitutto lecito per la vita sessuale, ma il fatto che sia lecito non significa che è finito. Cioè, perché la sessualità possa essere vissuta come una cosa bella ed edificante anche dalla coppia, ci deve essere uno sforzo di, come dire, trasformare, elevare una cosa che di per sé mantiene quella struttura intrinsecamente egoistica, perché è fondata sulla libido, in qualche cosa di oblativo. Questo significa l'integrazione dell'affettività, della sessualità, scusate, nell'affettività, di cui parlano tantissimi documenti della Chiesa. Quindi la sessualità può diventare, certamente, nell'attuale economia post peccato originale, un dono, d'accordo? Ma se uno legge, per esempio, il libro di Tenera Amata, adesso mi dispiace di fare un riferimento a un'altra rivelazione privata, dove parla di tutte quante le cose stupende che i beati vivono nella gloria accidentale, e Gesù stesso ne parla nel Vangelo, no? Non prendono moglie, non prendono mariti. Cioè, sicuramente se c'è una cosa che non ci sarà nella vita eterna è il piacere sessuale. Questo è sicuro, questo qui. Ma attenzione, di gioie e di piaceri in Dio ce ne sono di infiniti, d'accordo? Non da escludere nemmeno quelli sensibili, perché Gesù, risorto, lo sentiremo la settimana prossima, ha mangiato. Non ha bisogno di mangiare, ma ha mangiato il pesce. Se l'ha mangiato, come? Quindi può mangiare. Allora, questi sicuramente non ci saranno nell'altro mondo, perché quando Gesù parla con i Sadducei, la disputa con i Sadducei, che gli dicevano: ma questo ci ha avuto sette mariti, adesso che facciamo? Dopo la risurrezione, di chi è la moglie? Gesù dice: i figli di questo mondo prendono moglie e marito, ma non i figli dell'altro mondo, non coloro che sono ritenuti degni della vita eterna, dice il Vangelo. Quindi la frase a slogan è noto, insomma, poi, no? Quindi la sessualità è una realtà che può diventare una cosa molto bella, d'accordo? Perché c'è un sacramento, il matrimonio, che la redenta. Gesù l'ha coinvolta nell'opera della redenzione. Rimane tuttavia una sfera problematica, perché è notorio, insomma, che anche in una coppia felicemente sposata in chiesa può succedere che la vita sessuale possa diventare, come dire, un problema. Non è detto che sia, come dire, ipso facto idilliaca. Quindi c'è un'azione oggettiva che è svolta dal sacramento, ma ci deve essere anche, come dire, una integrazione soggettiva da parte degli sposi, no? Cioè, le modalità sante, diciamo così, di vivere la sessualità si devono, punto primo, conoscere, e non è il caso adesso di approfondirle in questa sede. Punto secondo, viverle. E questo è un compito, è un bel compito. Ah, se la coppia vive questo, certamente una realtà che di per sé mantiene proprio strutturalmente. Cioè, quando io, per esempio, parlo ai fidanzati, gli dico: approfittate di questo tempo, perché nel fidanzamento la sessualità non ci deve essere, a nessun livello, la sessualità esplicita, ma c'è invece spazio per l'affettività. Come Questo è fondamentale proprio per cominciare a mettere le basi di questo lavoro che dovrà essere fatto dopo il matrimonio, cioè integrare la sessualità nell'affettività. Cosa intendo con questo? Intendo che se io a una persona le faccio una carezza, che è un gesto di affetto, una carezza sul volto, per esempio, la carezza sul volto, a me che la faccio, non è che produce tutto sto granché, ma a chi la riceve produce una grande cosa. D'accordo? Così come un bacetto affettuoso a chi lo riceve, come dire, trasmette affetto, a chi lo dà un po' meno, è più bello riceverlo che darlo, diciamo così, no? Ecco. Allora, tutto questo prepara, come dire, l'ambiente perché la sessualità possa essere vissuta anche dentro il matrimonio come una cosa pienamente bella. Fermo restando, ripeto, la liceità, fermo restando che gli sposi possono vivere serenamente questa cosa, non possono astenersi se non di comune accordo, tutto quello che la Chiesa ha sempre insegnato, anche in forza della Sacra Scrittura. Quindi bisogna essere attenti, insomma, non parlare di cose così, ecco, serie, importanti e delicate per botti, insomma, no? Per slogan. Allora, Ianto Ernesto Donardo, buonasera. Lo scapolare, la medaglia miracolosa e la corona del Santo Rosario sono i sacramentali più importanti, è vero? Grazie e buona serata. Ma che cosa vogliamo dire? Probabilmente sì, d'accordo, questi io non ho tutta quanta questa, come dire, autorità né autorevolezza, insomma, perché poi, in fin dei conti, lo sa nostro Signore. Certamente la medaglia miracolosa, la corona del Santo Rosario, benedetto ovviamente, lo scapolare del Carmine, benedetto. C'è veramente anche la medaglia di San Benedetto, insomma, che non è che c'è molto da invidiare. Quindi i sacramentali sono tutti quanti oggetti che portati con fede producono, ci proteggono dal male e ci fanno arrivare nel modo proprio appunto dei sacramentali le grazie da parte del cielo. Evidentemente, fermo restando la vita di grazia che la persona deve fare, no? Perché poi le grazie arrivano tanto di più e tanto meglio quanto maggiormente chiaramente la persona è disposta poi, diciamo, integralmente, ecco, ad accoglierle e a riceverle. Marina.neri.50 scrive: buonasera Don Leonardo, quali sono i motivi per annullare un matrimonio religioso? Allora, per annullare un matrimonio religioso i motivi sono nessuno, perché i matrimoni religiosi non si annullano, d'accordo? Urca, non si annullano. E su questo bisogna essere molto precisi e rigorosi nel linguaggio, perché il matrimonio non si annulla, ma si dichiara nulla. Io, chi non lo sapesse, insomma, io ho fatto anche gli studi giuridici. Quando si studiano i contratti, un contratto può essere nullo, annullabile, risolubile o anche rescindibile. Allora, il contratto rescindibile e risolubile sarebbe, come dire, applicato al matrimonio il divorzio, d'accordo? Quindi una cosa che era valida a un certo punto si interrompe, d'accordo? Perché sono sopravvenuti dei problemi nell'adempimento. Una cosa annullabile, attenzione, era una cosa che era viziata, ma per un certo tempo ha prodotto effetti. A un certo punto ci si accorge che era viziata e la si fa dichiarare. La si fa annullare, però tutti quanti gli effetti nati dal lato annullato non decadono. Viceversa, se un atto è nullo, non ha prodotto nessun effetto ed eventuali diritti acquisiti in base a un atto nullo decadono. Ecco. Per quanto riguarda il matrimonio o sacramento, la fattispecie è solo questa, cioè ci possono essere dei casi in cui, per ragioni inerenti la struttura stessa del sacramento, il sacramento non è mai sorto. Per far capire, adesso non si può evidentemente entrare nel merito dei capi di nullità, no? Anche se si possono, diciamo, dire i più famosi. Se io celebro la messa con la pizza e non col pane azimo, la messa non è valida. Posso essere prete quanto mi pare, perché la messa sia valida, oltre che ci sia un sacerdote, una persona che abbia ricevuto il sacramento dell'ordine sacro, validamente, e che pronunci le formule prescritte dal rituale di Santa Romana Chiesa, non se le inventi, quindi la forma corretta, ci deve essere anche la materia adeguata. E la materia per la Santa Messa, per volontà di Nostro Signore, è il pane azimo e il vino. Per cui io non posso andare a celebrare la messa con il pane, non con il pane lievitato o con la pizza. Non lo posso fare. D'accordo? Se lo facessi, la messa è nulla. Cioè, quel pane, pane è rimasto. Ecco. Allora, l'unica cosa che accade nel matrimonio sono fenomeni di questo genere. Faccio gli esempi, diciamo così, più di scuola. Se una parte si sposa escludendo di avere i figli, quindi volendo al momento del matrimonio non avere per nessun motivo figli dal matrimonio, il matrimonio è nullo. Perché il voler avere figli fa parte delle condizioni richieste ad validitatem sacramenti, perché è un bene essenziale del matrimonio. Similmente, se una persona si sposa e esclude l'indissolubilità, cioè si sposa avendo questa chiara volontà, io mi sposo in chiesa, ma se qualcosa dovesse andare male io lo mando a quel paese e divorzio, il matrimonio è nullo. Tanto è vero che prima che una coppia si sposa in chiesa deve andare dal parroco, e chi si è sposato in chiesa lo sa, a sottoporsi ad un esame, che è l'esame dei nubendi, dove gli vengono fatte agli sposi delle domande ben precise. E io dico sempre, se si risponde la verità a tutte quelle domande, il matrimonio non può essere nullo. D'accordo? Perché tutte quelle domande attengono proprio una per una a capi fondamentali del matrimonio, in assenza di quale il matrimonio è nullo. Quindi quando si viene contratto un matrimonio nullo, c'è sempre qualcuno che ha mentito, quindi giurando il falso, in quella sede. E tant'è vero che molte dichiarazioni di nullità, siccome questo ricorre quasi sempre, questo pochi lo sanno, ma bene che lo si sappia, vengono pronunciate, ma con divieto di contrarre nuove nozze per la parte per colpa della quale il matrimonio era nullo. Nell'esempio che ho fatto prima, se io mi sposo, io escludo l'indissolubilità, invece mia moglie no, mia moglie la voleva l'indissolubilità, e a un certo punto va tutto quanto a scatafascio, di chi è? Perché il matrimonio è stato nullo per colpa mia? Perché sono io che ho escluso l'indissolubilità. Quella poveraccia non c'è nessuna colpa. Però io, facendo questa cosa, ho profanato un sacramento, oltretutto. Ho giurato il falso, oltretutto. E per cui la Chiesa ha tutto il diritto di dirmi: hai fatto questo, bene, tu in Chiesa a sposarti ti ci sposi più. Non ti dà la dispensa per le nuove nozze, per contrarre un nuovo matrimonio. Questo è constatabile. Parlate con i vostri parroci, insomma, e lo potrete tranquillamente constatare, ma oppure leggete qualche sentenza di nullità e dispositivi in cui appunto viene il matrimonio dichiarato nullo, ma la parte X non può più sposarsi in chiesa, oppure può sposarsi in chiesa solo col consenso dell'ordinario o cose di questo genere. L'ordinario sarebbe il vescovo, cose di questo genere, proprio perché si vede che l'ha fatta grossa, d'accordo? Che nel senso che, essendo stato lui la causa della nullità, o lei, prima di risposarti in chiesa bisogna che ci pensi un attimo e che dai segni che ti sei pentito e che sei affidabile, perché hai già fatto dei guai grossi, perché nel matrimonio non fa dei danni soltanto a sé, trascina i danni pure quello che gli si è messo vicino, poveraccio, insomma, no? Buonasera caro padre, volevo sapere se una persona, un'associazione ludica e festeggia Halloween con i bambini, anche se è per lavoro, questa persona commette peccato e mette in pericolo anche i bambini. Allora, questa domanda è una domanda, come dire, che può essere del tutto inutile, d'accordo? Non c'è scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica che Halloween sia peccato, d'accordo? Numero uno. Gli esorcisti, però, e quasi all'unanimità, d'accordo, io mi sono abbastanza documentato, e con profonda dovizia di argomentazioni, ammoniscono circa il non dover partecipare in nessun modo a questo tipo di feste. Punto e basta. Per cui, se uno crede a questo, e io ci ho parlato tante volte, consiglio vivamente di crederci, è evidente che la domanda non ha ragione di esistere. Chi fa questo qui fa un favore, se tutto questo è vero, a chi c'è dietro Halloween, che certamente non è un personaggio buono, dolce e caro. Quindi la domanda è priva di senso, insomma, no? Perché un'associazione ludica non è obbligata a organizzare tutti i giochi e i festeggiamenti possibili e immaginabili, può avere delle buone motivazioni per non farne alcuno. Non vorrei, dobbiamo sempre chiederci, quando non si fanno alcune cose c'è un detrimento patrimoniale, d'accordo? Io prima ho accennato, come dire, ai miei pregressi, anche se brevi, trascorsi forensi. Io nel breve tempo che frequentai l'ambiente degli avvocati conobbi, tra gli avvocati cattolici, alcuni che non trattavano le cause di divorzio, non le trattavano. Non trattare le cause di divorzio, dice, ma quello è il mio lavoro. Sì, è il mio lavoro, ma siccome questa cosa qui cioè, mi mette in una condizione balorda, rinuncio. E guardate che non trattare le cause di divorzio vuol dire rinunciare non a 5 euro, insomma, a un sacco di soldi, capito? Cioè, ci vuole anche coraggio, ci vuole anche fegato, perché una persona non è che appena si affaccia nella professione diventa il principe del foro e c'ha la fila di gente, cioè, un giovane avvocato che deve, come dire, farsi strada, farsi conoscere, se comincia a far così, se comincia a pensare in maniera umana, capito? Il problema è, questi sono problemi di coscienza, non si possono scaricare, d'accordo? Non si può chiedere, adesso mi risponde, è peccato e quindi non lo faccio più. Questi sono problemi di coscienza, d'accordo? D'accordo? Non ci sono, cioè non in tutte le cose, credo che a molto breve, forse domani stesso scriverò qualcosa su questi argomenti, l'ho anche accennato durante l'omelia di questa sera su un nuovo articolo, diciamo così, che intendo pubblicare, no? Cioè, noi dobbiamo imparare a fare discernimento dentro il nostro cuore. Cioè, chi ha questa associazione ludica non può scaricare, deve dire cosa mi dice la coscienza davanti a Dio, cosa è giusto fare davanti a Dio, dinanzi a questa situazione, perché io farei questa festa e cosa mi costerebbe il non farla, che ci rimetto, d'accordo? E sulla base di tutte quante queste buone motivazioni decide, d'accordo? Sulla base anche eventualmente della conoscenza acquisita, perché la coscienza deve essere formata, d'accordo? Uno può anche non crederci a queste cose qui, però per non crederci deve avere delle buone motivazioni. Cioè, siccome io a suo tempo queste cose le approfondì, ho letto, ho citato delle fonti, insomma, grosse quanto una casa, cioè che il 31 ottobre sia il Capodanno satanico, questo lo trovate su tutti quanti i testi di demonologia e su tutte quante le pubblicazioni fatte da organi scientifici competenti per lo studio delle sette, delle psicosette, capito? Non è che sono dati così, c'è questa strana coincidenza, d'accordo? Quindi non è che sono argomentazioni campate in aria. Poi c'è la prassi e l'esperienza di chi è addetto ai lavori, ognuno ha la sua specializzazione. Io non sono un esorcista, quindi ho letto, però, e quando sono stato chiamato in causa dico, secondo me queste cose appaiono altamente attendibili. Poi io ho studiato la teologia dogmatica per quanto riguarda, diciamo, le discipline ecclesiastiche, ho detto tante volte, nel diritto canonico, nella liturgia, non faccio l'esorcista o cose di questo genere. Però, ecco, bisogna poi prendere atto, pensare, mettersi davanti a Dio e decidere. Bambini 4 dice, corretto ritenere che il diavolo non avesse la certezza che Gesù di Nazareth fosse Cristo figlio di Dio, altrimenti non avrebbe fatto di tutto per farlo uccidere. Questo non è che è corretto, questo è sicuro che sia così, perché fin dai tempi dei padri della Chiesa, questo è campo mio, c'è per esempio il grande San Leone Magno, e parlavano della redenzione come la grande trappola che Dio ha teso a Satana, nel senso che gli ha occultato la discesa del figlio di Dio sulla terra, e quindi lui vedeva semplicemente un grandissimo giusto, ma non era sicurissimo che fosse lui, perché se fosse lui non l'avrebbe fatto uccidere, perché sapeva che se avesse fatto questo avrebbe ottenuto la redenzione del mondo. Chi ha visto la passione di Mel Gibson, per esempio, questa cosa pacifica, diciamo così, tra i padri della Chiesa latini, è espressa dal fatto che appena muore Gesù si vede il diavolo che si dispera all'inferno. Questo è il motivo per cui il diavolo si dispera, che ha capito che quel momento era la fine, quello è il momento in cui ha capito che chi era colui che era stato ucciso. Albiberto, buonasera padre. Quando si parla dei fratelli di Gesù nel Vangelo, è vero che si tratta di parenti generici, ma di chi si trattava? Allora, certamente sì, si trattava dei figli, sono tutti e quattro i figli del fratello di San Giuseppe. Di due di essi, se uno guarda tutti quanti i Vangeli, mi sembra che sono Ioses e Simone, si dice esplicitamente in un'altra parte del Vangelo che sono figli di Maria di Cleofe. Cleofe era il fratello di San Giuseppe. Gli ebrei chiamavano fratello, Ach è in ebraico, non semplicemente come noi fratelli germani, ma anche i membri della parentela neanche troppo vicina, perché Abramo e Lot, che erano zio e nipote, come è noto, se uno legge i testi dell'Antico Testamento dove si parlano, Abramo dice a Lot: tu vieni con me, ma non siamo forse fratelli? E il termine che usi in ebraico è Achot, Achim, non Achot, Achim. Perché? Perché l'ebreo parla così, d'accordo? Anche io quando saluto i fedeli, bisogna vedere il campo, cioè che cosa dico? Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, giusto? Ma non è che sotto l'assemblea stanno mio fratello e mia sorella di sangue, no? Dentro un contesto cultuale noi siamo fratelli in Cristo. Dentro un contesto della rivoluzione francese, d'accordo? Quindi del cosmopolitismo, sono tutti quanti fratelli. Fratelli e sorelle sono tutti. Quindi bisogna vedere il campo semantico, d'accordo? E il campo semantico è come ho cercato di illustrarlo. Questo abbiamo già risposto. Rossi Biffi scrive: buonasera Donale, in questo periodo avendo avuto una possibilità di partecipare alla veglia pasquale, volevo sapere se posso ricevere la comunione. Rossi Biffi, in questo periodo bisogna obbedire alle disposizioni delle autorità ecclesiastiche, per cui i vescovi hanno fatto, tutti quanti, anche il mio, dei decreti con cui regolano eventuali partecipazioni ai riti della settimana santa, che dalla mia parte sono ridotte a 4.